Nausicaa, nella Valle della Rete. Eccoci qua, arrivati al quarto appuntamento con Nausicaa nella Valle della Rete. Io sono Antonio Dini. Tra un po' si sentirà anche la voce della mia compagna della trasmissione, Giovanna Giagoni, nella rubrica specializzata in videogiochi. Ma prima di arrivare a questo, sono tante le cose da dire e sono anche tante le cose da fare. Tanto per cominciare, ci sono alcune domande alle quali rispondere, ci sono state alcune provocazioni, se vogliamo, che sono arrivate attraverso i canali multimediali. Io vi ricordo antonio@vil.it, l'indirizzo di posta elettronica tramite il quale potete mettervi in contatto con noi. La domanda fondamentale è stata: perché il Giappone e perché così tanti videogiochi? E diciamo che il tempaggio del sottoscritto era perfetto con la terminazione della traccia precedente e l'inizio di questa. Super Gulp, i fumetti in televisione, una trasmissione storica della Rai. Non pensiate che stia cambiando argomento, in realtà ora mi ricollego a quanto dovevo dire prima, perché in effetti questa trasmissione segnò il punto più alto, della capacità che ha avuto l'ente pubblico di rappresentare un universo per una generazione di adolescenti, per le persone che adesso stanno fra i 25 e i 35 anni di età. Era la fine degli anni 70 e poi l'inizio degli anni 80, la produzione italiana, ma da contraltare a questa, oltre alla produzione americana, che a dir la verità era poco conosciuta perché l'animazione Walt Disney era un'animazione più che altro legata a grandi favole, tipo Cenerentola, tipo Fantasia, che più che favola è un discorso differente, e la produzione invece di cartoni in Italia era una produzione al 90%, come lo è tuttora, da parte della Walt Disney autoctona, cioè costruita e disegnata da autori italiani, e su questo ci sarà e ci sarebbe da parlare a lungo. Dicevo, rappresenta una punta verso l'alto, che poi si è clamorosamente invertita sul finale degli anni 80, tanto che comitati di genitori hanno portato il cartone animato, l'animazione molto lontana, e sia quella italiana, che sta attraversando tuttora uno dei suoi più grossi momenti di crisi, sia quella giapponese, relegata ad alcune serie commerciali, dopo tanti errori che sono stati fatti, trasmessi e censuratissime principalmente dalla Fininvest, attualmente Mediaset, o da alcuni canali privati, tipo Junior TV o altre emittenti sparpagliate qua e là. Sono vari i riferimenti che si possono fare, varie le considerazioni, però sinceramente una è superiore a tutte le altre, ovvero sia questa inversione ha ucciso fondamentalmente e principalmente un mercato, quello dell'animazione giapponese, ed è un mercato importante e vedremo subito perché. Nel deserto australiano due cacciatori spiano due pecore in canguro che giocano fra loro. Spara un fucile, ferisce il piccolo canguro che resta steso al suolo chiamando chi lo salverà. Ed è l'animazione, questa era Wubinda, un'altra serie famosa e storica di una fase oramai lontana e dimenticata, per questa generazione che è schiacciata da tutte le parti da altre generazioni che hanno altre esigenze. Dicevamo l'animazione giapponese, ma l'animazione giapponese e il cartone giapponese hanno in ogni caso proseguito il loro cammino. Hanno proseguito il loro cammino nella mente di appassionati più o meno di tutte le età, tanto che il principale mercato dell'intrattenimento in Italia, subito seguito a subito seguire da quello dei videogiochi è quello proprio delle pubblicazioni di cartoni cartonati, cosiddetti manga, e cartoni animati, ovvero sia i cosiddetti anime, da parte di case editrici nostrane. Noi siamo il primo paese al mondo importatore di fumetti e animazione giapponese, e buona parte anche di quella che viene prodotta e realizzata, tradotta e realizzata negli Stati Uniti, viene poi ad essere reimportata in Italia. Una situazione paradossale alla quale i giapponesi, tra parentesi storicamente amanti della cultura e dei panorami italiani, non sanno letteralmente darsi pace. E proprio i giapponesi costituiscono una buona metà dell'ossatura del mondo dei videogiochi, mondo dei videogiochi che ha anche una sua particolarità, la grande divisione fra PC, ovvero personal computer, PC o Mac che sia, e dall'altro lato le console, invenzione squisitamente anglosassone, americana, però prestamente abbandonata e trapiantata in Giappone, tanto che le principali case produttrici, la Sega, la Sony e la Nintendo, che producono appunto l'attuale Dreamcast, il Nintendo 64 e la PlayStation, la futura PlayStation 2, sono quelle che fanno del loro capitale il capitale giapponese. Non ci dimentichiamo che la Sony guadagna più dalla divisione videogiochi della PlayStation che non dalle singole altre divisioni che facciano automobili, che facciano impianti hi-fi oppure che producano cinema. Non ci dimentichiamo che la Nintendo è stata la prima azienda per fatturato in Giappone. Sono tutte cifre queste che dovrebbero far pensare abbastanza, dovrebbero far pensare, anche perché il mercato dell'entertainment è forse più evoluto in assoluto. E questo introduce ancora un altro tema. Il tema che introducono è quello di internet. Internet e tutte le meraviglie della rete, i modi e i motivi per cui si viaggia in rete, se avete notato giornali, quotidiani, settimanali, periodici, televisione, il vicino, il macellaio e anche il postino la mattina quando vi lascia il pacco di cambiali e di multe arretrate che dovete andare a pagare, ebbene tutti questi dentro il cervello e anche al lato della bocca, nei molari, masticano questa parola internet, internet, internet, tutti ne parlano, tutti ne scrivono, in realtà in molti pochi la frequentano, l'Italia è uno tra gli ultimi paesi europei, peggio fanno solamente la Grecia e qualcosa di questo genere, ma è anche uno dei paesi nei quali l'ignoranza informatica e la poca distribuzione di PC la fa da padrona. I videogiochi come forma di apprendimento e le console, le più moderne dotate di modem, rappresentano probabilmente, anzi a parere di chi parla, cioè mio, sicuramente l'avvenire in questo senso. La possibilità di comprarsi a pochi soldi una console e collegarla al televisore di casa da un lato e al telefono dall'altro e andare a giocare oppure spippolare sulla rete possono rappresentare un'alternativa e uno stimolo. Un'alternativa perché costano molto meno di un PC, uno stimolo perché si impara meglio se si gioca che non se si deve imparare a tutti i costi qualche cosa per il lavoro. Il mercato dei videogiochi si sta evolvendo in modo sostanziale, numerosi sono anche i videogiochi rivolti ad un pubblico femminile e non è più quindi prerogativa dell'adolescente, del 14enne con gli occhiali spessi che ha voglia di distruggere gli avversari a colpi di spada o cose di questo genere, per quanto possano essere giochi assolutamente non brutti. Di questo e di altri temi ci occuperemo, questo mettiamola così, è un po' il manifesto, anche se arriva dopo 4 settimane dall'inizio della trasmissione, di Nausicaa nella Valle della Rete. Ma adesso io penso che sia in equanimità il momento di lasciare lo spazio a Giovanna Giagoni con la rubrica per l'appunto di videogiochi. Sono passati 4 anni da quando Lara Croft ha fatto il suo esordio nel mondo dei videogiochi ed il suo contributo a rendere l'intrattenimento videoludico non più un fenomeno di nicchia è stato determinante, più di Pac-Man. Adesso la signorina inglese, figlia della Core Design, è arrivata al quarto capitolo, Last Revelation, e ancora una volta accanto alla versione per PC e per Mac c'è anche quella per console. La PlayStation, che sembrava arrivata alla frutta, invece ci regala ancora un titolo di rilievo. Ed è da notare che per permettere al gioco di girare sulla Play, i programmatori hanno mantenuto pressoché invariata la struttura del precedente capitolo e limitata l'ampiezza dei livelli. Qualcosa di nuovo si saranno certamente inventati, ma questo quarto capitolo si presenta come il secondo, e cioè di transizione in attesa di macchine più potenti. Intanto vale la pena di fare una ultima considerazione. Un PC con scheda grafica e monitor decente per meno di 2 milioni ve lo sognate. Aggiungendo le 100.000 lire del gioco, sono 1.800.000 in più del costo di una PlayStation con Tomb Raider 4. Vale la pena se si vuol solo giocare e spendere tutti quei soldi? Soprattutto considerando che le nuove console come il Dreamcast arrivano con modem e possibilità di navigare su internet, questo rende il PC, se possibile, ancora più obsoleto. L'anteprima del nuovo Tomb Raider 4, ambientato in Egitto, che uscirà a novembre, ci è stata gentilmente offerta da Millennium, via Embriani a Sesto Fiorentino. Un saluto a tutti voi da Giovanna Giagoni. Gaikok G, i nuovi barbari dell'era digitale. Un topo d'auto di Londra in Gran Bretagna ha trovato una macchina fotografica nella vettura che aveva appena fresca rubata. Non ha resistito alla tentazione e si è immortalato con l'autoscatto. Poco dopo però è stato coinvolto in un incidente e ha dovuto abbandonare auto e macchina fotografica. Per gli agenti non è stato difficile rintracciarlo e l'avvocato che lo difende in tribunale ha dichiarato: il mio cliente è completamente idiota. This is goodbye if you do me wrong. So baby tonight I'm Gaikok G, i nuovi barbari dell'era digitale. Anche per questa settimana siamo arrivati al termine del nostro viaggio, il viaggio di Nausicaa nella Valle della Rete. Un viaggio un po' particolare perché in realtà più che di viaggiare abbiamo parlato dei posti nei quali cercheremo di andare. Questa trasmissione vi terrà compagnia il più a lungo possibile, compatibilmente con la capacità dei suoi conduttori di sopravvivere, e vi garantisco che siamo tenaci e abbastanza attaccati alla voglia di fare radio. Vi ricordo anche che le possibilità che si svilupperanno in un futuro, e me ne renderemo immediatamente conto, per avere tramite altri mezzi, che so io, internet o magari qualche altra soluzione, ancora nostre notizie, saranno vari, vasti e numerosi. In ogni caso vorrei ricordarvi ancora una cosa: gli strumenti, qualunque strumento neutro, è l'utilizzo che se ne fa, e il fatto che per la prima volta, che so io, i videogiochi abbiano venduto più di quanto in America non abbia fatto tutta Hollywood, cioè più del cinema, oppure che il commercio elettronico abbia sorpassato quest'anno il commercio materiale, spicciolo come fatturato complessivo sempre negli Stati Uniti, o che in Italia si stia arrivando ad un punto di saturazione per il quale, se non si inverte la distribuzione dei mezzi, collasserà un mercato che in realtà starebbe iniziando a produrre proprio in questo periodo, dovrebbero far pensare. Sono questi, insieme a tanti altri temi che affronteremo insieme. Da Antonio Dini un saluto, vi ricordo l'indirizzo antonio@ville.it per mettersi in contatto con noi, e beh, rimane poco se non il tempo di salutarsi veramente. Arrivederci alla prossima settimana. Nausicaa nella Valle della Rete. Satore alashi ga fukoto mo, tatoe onami arerutomo. み出そう戦いの海へ飛び込もう戦いの渦へ 見つめ合う瞳と瞳ぬくもり